18 maggio lo switch over, cioè lo spegnimento di due soli canali analogici a favore di quelli digitali. Rai 2 e Rete 4 in particolare verranno spenti in analogico, non saranno più visibili con i vecchi televisori, ma bisognerà dotarsi di un decoder o di un TV integrato, con ricevitore integrato per vederli di nuovo. L'altro termine importante da ricordare è switch off. Ecco, che cos'è invece? Spegnimento, quindi si spegne completamente, si spengono le trasmissioni televisive analogiche a favore di quelle digitali. Roma, che citavi prima, è una delle regioni che lo scorso anno ha già completato entrambe le operazioni, che è stata spenta completamente dal punto di vista analogico. I cittadini della capitale, insieme a quelli della regione Lazio, vedono solamente le trasmissioni televisive digitali. Ecco, comunque mi sembra di capire che nel 2012 questa transizione, questa migrazione al digitale terrestre sarà completata. Esatto, esatto. Però si è deciso di percorrere questo tragitto di digitalizzazione in diverse tappe, utilizzando gli stessi schemi che Inghilterra e Spagna stanno utilizzando, e Spagna ha appena concluso prima di noi. Allora, stanno arrivando un po' di SMS, il digitale è instabile, mi tocca riprogrammare i canali digitali ogni settimana ed ogni volta mi prende canali diversi. Questo anche in Lombardia, non è l'unico, esatto. TV con decoder integrato nuovo di Zecca, qua va a sottolineare insomma qual è il suo armamentario tecnologico, e poi è anche limitato perché non posso più programmare una registrazione in video. Però facciamo una cosa, andiamo tappe a tappe, cioè pianino pianino. Davide, non è così semplice il discorso della sintonia, cioè ci sono un paio di cose da dire, credo. Sì, il primo tema importante è che l'impianto di casa è già adatto al digitale terrestre, utilizza la stessa tecnologia, non va nella maggior parte dei casi cambiato nulla. Può succedere che in fase di spegnimento dei canali analogici, accensione di quelli digitali, alcune emittenti cambino o le postazioni o le frequenze, e di conseguenza può essere necessario effettuare dei piccoli aggiustamenti agli impianti, però ripeto, questo è nella minoranza dei casi.